verso Palazzo Farnese. I ragazzi si ingrugnavano e Artemisia si tirava sulla fronte la pezzola. Sorrise Antonio, o non sorrise in sagrestia, mentre si cercava il curato e gli sposi erano soli faccia a faccia. La luce pioveva di sghembo da una finestra spericolata e il suo viso si increspava come un'acqua morta. Brividi sul ciglio, agli angoli della bocca, per le narici, da ragazzo lo chiamavano il coniglio. Poi la minima burrasca si spense, i tratti ritornarono opachi, leggeri, una maschera vuota. All'altare, in ginocchio sui gradini, la sposa toccò una mano fredda e umida, ne ebbe un anelletto d'argento infilatole con studiosa imperizia, mentre il lungo dorso di Antonio si curvava e il petto si incavava come per grave fatica, ma senza inclinarsi e a mano libera firmò rapidamente sul libro parrocchiale. Antonius sti attesi, e ci sparse sopra il polverino che Artemisia trovò sotto la penna quando venne il suo turno. Uscirono da una porticina, non rientrarono in chiesa e subito Orazio lasciò la compagnia senza spiegazioni. Alla rotonda i gemelli si spersero dietro un cantastorie. A Sant'Eustachio Fabrizio abbracciò un tale che sembrava un soldato e rimase con lui. Antonio andava sempre avanti come era venuto, con quelle gambe senza misura, e Artemisia, più ristretta che mai nelle vesti nere, camminava staccata dal suocero che scatarrava e sputava. Passò un cataletto con le torce. Due donne si picchiavano al canto della sapienza. Più in là un ciarlatano mostrava uccelli ammaestrati. Senza accorgersene, Artemisia rallentò il passo. Si incantò un pochino e quando si riscosse, né il tabarro del suocero né il giubbone verde del marito erano più alle viste. Ritrovò il vecchio in banchi, fermo a parlottare con un pellegrino, ma Antonio, per qualche anno, non doveva più vederlo. Pure due anni stettero insieme, dal 22 al 24, dal 25 al 27. Così poté interrogarsi Artemisia da vecchia, senza memoria, alzando gli occhi al soffitto, se alla vecchiaia arrivò. Ma certo, meglio si ricordava che, tornato finalmente a Firenze, il babbo non disfece neppure il baule. Con riluttanza dormiva in quella casa sull'Arno che la figlia s'era tanto rallegrata di mostrargli per averla procacciata abilmente dalle protettrici. Bastò la luce fredda dei suoi occhi pungenti, il taglio acuto della sua barba e il modo di portarla, perché il prestigio di un anno di vita pura e lo stesso altero candore dei pensieri si riducessero a frivolezze e magari tornassero a scorno. Osservata la Giuditta, Orazio disse «Bene» e guardava la figlia con attenzione, che a lei parve rimprovero sottinteso e quasi se ne disperò. Cercava in sé Artemisia Gentileschi, pittrice in Toscana, non la trovava più, non si voleva più bene accanto a questo padre difficile e silenzioso, sempre più silenzioso e come dispettoso. Non si era ancora capacitata che così era Orazio quando voleva essere libero e si sentiva legato. Lo capiva, non lo accettava però, cercava una spiegazione, la sanzione eterna dei suoi peccati e da pochezza. Di nuovo si sentiva ambigua, goffa, infida, sollecitando, temendo insieme una liberazione che venne desolatamente benefica come l'acqua dal cielo e il tuono pacato sulle montagne. «Io parto lontano, bambina», si tagliava il pane appoggiando la pagnotta sul petto come una donna. «Sono stufo di questa canaglia italiana e vado in corte d'Inghilterra. Ci rivedremo o non ci rivedremo, che è tutt'uno. Il Gentileschi non ha paura dell'inferno. Tu sei un pittore». E sospirò, come gli accadeva di rado, in una pausa dello spirito che il corpo provato coglieva per esalare la sua fatica. «Sei un pittore, ma a Roma ci hai il marito. Torna a Roma, bambina. Anche con gli sti attesi potrai campare, con l'arte alle mani. Io credevo che saresti finita male, e invece... Parto domani, bisogna aver pazienza». Beve un bicchiere d'acqua e seguitò un pezzo a sbocconcellare la sua fetta di pane senza toccare la minestra che aveva davanti. Non c'era da proporre né da discutere né da pregare. E di fronte al padre, Artemisia non aveva mai saputo piangere. Non c'era che da prevedere cose semplici, inevitabili e insopportabili, tutta quella polvere di Porta a Prato, dove le vetture torneavano in una nuvola bianca e soffocante. E i viaggiatori salivano e scendevano quasi già avvolti dalle nebbie della distanza e già irriconoscibili in un frastuono di gerghi ultramontani, di urlacci toscani e mosche sui cavalli sudati e rotolare di mercanzie e bagagli, dove i piedi di chi si fermava a guardare, a salutare, non sapevano dove consistere. All'ultimo, tutta la pena di Artemisia si ridusse alla paura che il padre le negasse di accompagnarlo fin lì e alla cura di nascondere l'angoscia. Ma egli fu longanime, l'abbracciò, leggero e fuggitivo. I suoi panni odorosi di trementina parevano non contenere membra e già si appoggiava alla ringhiera, già era salito, agile e spensierato come andasse in campagna. Si sedette, accennò un inchino modesto a qualcuno, si sbottonò da collo. E pareva averla già dimenticata, quando si voltò rapidamente e, alzata la mano, sembrò, più che salutare, fermare qualche cosa nell'aria. Un suono, una parola, una promessa. Così, per l'ultima volta, lo vide. Artemisia, in Italia. Potevano rotolar carrozze in tutto il mondo. Nessuna valeva un sospiro da che quella di Orazio era partita e non più raggiungibile. E dire di Artemisia, ritornò a Roma. E raccontare con lei, secondando il suo gusto di quei giorni, risparmiandola. Sotto i suoi piedi le ruote giravano, nella sua testa il cervello dormiva. Tra le sue palpebre chiuse nessuna immagine si insinuava. Il dolore è talvolta liscio, scorrevole, buono, più che la prudenza a difendere dalle insidie e dai pericoli. E se talvolta lo sguardo si svagò sulla campagna, la intolleranza di scoprirsi fermato da un altro sguardo fu così altera da imbarazzare anche un violento. Così scese una mattina a Piazza del Popolo un'altra donna da quella che ne era partita. Una donna, proprio quello che una fanciulla non ha voglia di diventare, checché le sia successo. Ma c'è poco da scegliere e meno ce n'era nel 1622 o 25 a Roma. Così Artemisia alzò la testa e fece il conto dei suoi averi. Bel viso, bella mano, bella persona, talento, quattro casse, 200 ducati, un marito vivo o morto, eredità che la fanciulla aspirante e non curante le trasmetteva e di cui si affrettò a prendere il comando. In un lampo seppe che il maggiore di questi beni era il marito. Condizione perché gli altri fruttassero. Intanto si premuniva, distinto, contro malevolenze e curiosità, imitando da stupirne le dame di Toscana così brave a farsi rispettare. Riconosciuto definitivamente il suo stato, forte all'improvviso di una voglia di vivere e prosperare che le fanciulle non hanno, sacrificava per la prima volta, con animo sgombro, all'astuzia, la dea dei poveri che non vogliono morire. Ebbe la carrozza pronta, i facchini ossequienti, il bagaglio subito scaricato, le informazioni giuste. In capo a un'ora imparava dove abitassero oggi gli stiattesi, senza essere riconosciuta né confessare ad alcuno di portare quel nome pitocco. Il genio dell'azione furtiva e impronta le suggeriva i gesti e le parole, la conduceva per mano, sentiva di aver stretto un'alleanza oscura, una specie di patto con se stessa attraverso una legge orora scoperta, quasi una seconda natura, e in un brulicare di minuta attività si divertiva. Gli stiattesi stavano a Ripa Grande, secondo il loro costume, non allogati civilmente, ma in certe grotte rovinate e male intonacate, fra le cucine e le scuderie di un marchese che troppo presto aveva messo palazzo. Il vecchio Giambattista aveva sempre lo stesso tabarro delle nozze e il solito rosario in mano quando Artemisia gli apparve sulla soglia della porta sempre aperta. Ai panni gli si attaccavano smoccolando due bambocci in stracci di velluto, il viso coperto di croste. Fece l'uomo indignato, alzò le mani al cielo, arretrò di due passi, ma intanto entravano i bagagli e s'avvide che erano pesanti. Già lacrimava, già diceva «figliola!» Si mise a tremare, a incespicare, portando l'indice agli occhi come a dire che non ci vedeva. Gridava dentro «Gervasio, Mariuccia!» La stanzaccia pareva disabitata. E Artemisia si stupì di saper trattare con quest'uomo detestato nell'adolescenza, come una bestia sporca e nociva, negli ultimi anni allontanato nel pensiero come uno spauracchio infantile. Ora le appariva scoperto al primo sguardo e l'ultimo resto della ripugnanza antica rinasceva nell'assenza di pietà con cui mirava i suoi stracci, il suo viso grigio consumato dalle menzogne. Le piacque domandare con l'accento fiorentino che non praticava mai «E chi sono questi?» Contorcendosi, asciugandosi le palpebre afflossionate e dopo aver sgombrata una panca «Figli!» rispose «Figli di Mariuccia! Sa Dio!» Entrava di spinta una donna a piedi nudi e sottana di broccato. Era più violento il suo passo di scalza di qualunque pedata. «Ancora sei qui!» urlò con una mossaccia del labbro gonfio e rimase a bocca aperta e rissosa che aveva riconosciuto la forestiera. Mariuccia, dunque, figlia maggiore di Tuzia, schizzinosa zitella di convento che la madre già dava per santa e lo stiattesi andava a rilevare la domenica, né c'erano mai zendadi che le coprissero abbastanza gli occhi e la bocca. «Sa Dio», seguitava Giambattista, cercando l'attitudine più veneranda, quella con cui posò per San Paolo Eremita e per San Pietro in croce. Artemisia, studiatamente, si sfilava un guanto. «Sa Dio se son padre d'anima questi innocenti!» E pigliata di spalle Artemisia, che alteramente non si schermì, la menava in un cantuccio per alludere a voce bassa e ammiccando a un gran signore e alla poveretta messa in mezzo, alla misericordia e rassegnazione ai voleri del cielo. «Per levarla dai pericoli l'ho sposata quando Grazia morì», sospirò alla fine il vecchio, tenendo sempre d'occhio le casse, che ormai erano tutte scaricate. I facchini, uscendo, avevano intoppato un accattone zoppo che al coperto smise subito la gruccia e la gobba. Mariuccia, da accigliata e aggressiva che era, fece un viso giovialone e aizzoso e si andava accomodando i capelli e inumidiva il labbro. «Di là son pronti», disse accennando alla porta da cui era entrata e, come quello indugiava, sogguardando la pittrice. «Sordo sei?» fece accendendosi d'una furia che lasciò libero l'accento paesano di Tuzia, quel ricciolo pesante dell'interrogazione beffarda. Allora Artemisia distolse gli occhi e sedendosi sulla panca ricercò del marito. «Una perla, quel figlio!» cominciò Giambattista, contento di imbarcarsi su un mare facile e tutto fuoco nello sguardo ormai asciutto che già imbastiva raggiri. Le sue palpebre non cessavano di battere. «Ho un figlio che ci campa tutti, me, povero vecchio, i fratelli disgraziati e questi poverelli di Dio!» Affacciò il capo a un tendone. «Gervasio, creatura, avvisa Antonio che c'è la sua Artemisia. T'ha aspettato tutti i giorni, un boccone e un sospiro, un boccone e un sospiro. Ma sai com'è attento e oggi è giorno di banco a Piazza Navona». Canterellando, con una voce tutta groppi di basso e sottigliezze puerili, venne fuori dal tendone un ragazzotto che era il piccolo Gervasio, cresciuto adolescente, e menando le gambe svogliato, leggeva un libricciolo col naso sulle pagine. Alle esortazioni del padre di far presto, non mostrava d'aver sentito, ma pur camminava e prima di uscire in strada lanciò un'occhiata ad Artemisia, rapida e sottile fra le palpebre strette, e parve tutto Antonio quando era ragazzo. Sulla panca aspettava la Gentileschi, incerta e trasognata nell'animo, ma all'aspetto composta e ferma come una viaggiatrice in attesa del cambio dei cavalli. La panca era imporrita, una vecchia panca di chiesa stata a lungo in deposito fra cataletti, torcieri e stendardelli da funzioni. Di lì caduta in uso agli stiattesi chissà come. La parete, a cui di tratto in tratto appoggiava le spalle, non aveva intonaco e a fatica vi si distinguevano fra grossi blocchi di tufo, tracce di calce, ma dal ribrezzo di quella nuda rozzezza distraeva largamente l'andare e il venire di gente varia e strana per quella sorta di antro, sicché Artemisia era tutta intenta a guardare e a guardare soltanto. Tre diverse qualità di sciancati, tutti con bisaccia, un frate cercatore, due cavallanti carichi di cavezze e finimenti, due soldati che entrarono pingui e smilzi, uscirono. Poi donne e donnette, vecchie la più parte e distrutte, ognuna con fardelli e fagotti. Un uscio da un lato con solo mezzo battente, dall'altro quel tendone di feltro da cui Gervasio era uscito, separavano da questo gli ambienti che la famiglia abitava e in cui entravano i visitatori. Si intrattenevano parecchio e spesso contendevano a voci minacciose e querule, secondo il caso, ma tutte dominate da quella di Mariuccia che un'altra volta apparve. Per un istante, un taccuino alla mano, la camicia scivolatale dalla spalla destra, bruna e rotonda. «Ci si ingegna», disse il vecchio Stiattesi, che era rimasto a guardia della nuora, occupato in apparenza a sistemar panchetti, a lisciare e piegare una sporca tovaglia, a radunar gotti sulla tavola, mentre i due bambini rotolavano per terra insieme a un cucciolo bastardo e allegro. Un occhio gli si fece piccolino come se lo strizzasse e già lo smentiva balbettando giaculatorie. Passando e ripassando fra cassa e cassa, ora ne spingeva indietro un angolo sporgente, ora toglieva un fuscellino da una connessura, le sue dita tremavano e pareva che tutto quel suo affaccendarsi crescesse a misura che l'immobilità di Artemisia e il suo sguardo tranquillo e paziente duravano. Entrò alla fine anche Fabrizio. Fattosi soldato, con gran pompa di ricami alla giubba, e tempestò che voleva mangiare. I ragazzi si rintanarono, la voce di Mariuccia di là si fece morbida e anche Giambattista era scomparso. Il soldato camminava su e giù, inciampava nelle casse, ci sbatteva la spada, prese a calci il canino, vociava: si viene o non si viene? E regolarmente, dopo ogni tonfo e urlo, guardava la cognata senza salutarla. Lei non si muoveva, ma prese una positura più comoda, gettandosi all'indietro con uno sguardo insolente e fra sé rideva. Rideva a un pensiero che era stato a volte un rimorso. Tutto quel sangue di Oloferne che stagnava sulla tela dipinti. Io l'ho dipinto, come se avessi ucciso un prepotente. Portava un pugnaletto in tasca, con l'unghia del pollice ne accarezzava la forma mentre Fabrizio si tirava sui calzoni come Cosimo Furiere. Cosimo Furiere, quest'altro Oloferne. La spinta del vecchio odio fu così schietta che Artemisia si levò in piedi e le parve di essere un gigante. Ma un gigante non era. Era una donnina, bionda per giunta, e il corpaccione di Fabrizio era così solido, fra panca e tavolo, che non le restò che guardarlo e sperare che gli occhi frustassero. Si faceva sera, il sole era basso, voci molli venivano dal lungo fiume come esauste, una cantilena da carcerati. In quel momento Antonio comparve. Se lo ricordava secco e pallido, le spalle curve, e tale era rimasto, ma con un nuovo spessore d'ossa, con un'esperienza di movimenti faticosi che lo maturava. E lo faceva così com'era accettabile. I vestiti che portava pareva di averli sempre conosciuti, ma gli stavano giusti e villi non erano. Anche lui aveva un sacco a spalla e lo scaricò subito con una specie di leggerezza disinvolta. Scansò il fratello, ma senza fretta e senza peritanza, come avesse intoppato in un mobile. Si chinò a raccogliere uno spago. Aprì un cassetto e finalmente guardò Artemisia. E Artemisia gli sorrise, quasi fosse nata ora. Sorrideva e non rammentava affatto di aver conteggiato 6 ore fa i vantaggi che un marito può offrire a chi sia sola. Non rammentava neppure Francesco, il fratello devoto cui aveva preferito, arrivando, quello che giudicava il suo diritto, questa torbida famiglia E quest'uomo sorrideva, non presumendo di concedere, ma inspiegabilmente liberata e contenta. In quell'antro, tra parenti ladri e mezzani, senza letto, si sentì maritata da 2 anni protetta. Gli sposi non si strinsero la mano, ma insieme, come d'accordo, s'occuparono del bagaglio della stanza da abitare. Per tutta la sera si parlarono a bassa voce, concertandosi, e coi parenti uno prendeva la parola per l'altro con naturalezza. Una volta Antonio ammiccò, avvertendo la moglie di un inganno di Mariuccia, e prima di notte 2 volte Artemisia scosse la polvere dalla manica di Antonio, che si era sfregato al muro. Si accomodarono in un camerone che era stato magazzino e c'era marcito il grano, ancora se ne sentiva l'odore. Il letto era un pagliericcio, sull'ammattonato, ma c'era bisogno di salirci e quel lasciarsi cadere dall'alto quando si era stanchi aveva la sua dolcezza. Accanto al capezzale il bagaglio di Artemisia, chiuso e intatto, e in fondo al letto, da un muro all'altro, 2 corde stese, sopra vi la mercanzia di Antonio che faceva il merciaio e i robi vecchi. Fin dalla prima sera egli sistemò ogni cosa a quel modo, chiudeva spesso gli occhi tra l'una e l'altra faccenda, quasi per riposarsi, e aveva le mani deboli, disadatte, pareva che trascinasse i sacchi con le unghie. Artemisia stava a guardare in piedi, impallidita dalla stanchezza, e un tratto si mise a gemere piano. Con chi altro lo avrebbe osato? Che non ce la faceva più e voleva sdraiarsi. A uscio chiuso e chiuso dietro le spalle di Antonio, che era uscito, invece di spogliarsi, si buttò a piangere a dirotto, quasi con ingordigia. Era maritata anche per questo, per piangere di nascosto. Quando si è soli, piangere non soddisfa. 2 volte Antonio bussò alla porta con seggiola e tavolino, la prima e poi con una chicchera fumante di cioccolata. Il labbro della tazza era sottile da non crederci in quel tugurio. Venne fuori una ciambella, un grappolo d'uva dorata. Artemisia masticava piano, innestando la fame alle lacrime. Antonio andava attorno per la stanza col suo passo lungo, oscillante di ragazzo troppo alto. Poi si sedette sullo scalino sotto la finestra a scrivere svelto su uno scartafaccio. Non si capiva come potesse vederci a quel lume indistinto di crepuscolo e Artemisia, che aveva una lucerna posata a terra, gli disse di venire più in qua, che la lucerna poteva servire per 2. Lo disse con l'accento falsamente corrucciato di certe vecchie mogli affettuose e Antonio le diede retta e si accucciò accanto a lei sul saccone, seguitando poi a scrivere sulle ginocchia. Sollevava la testa di quando in quando e la guardava mangiare senza intenzione, pensando ai suoi numeri, ma ad Artemisia pareva che ogni boccone che inghiottiva corrispondesse una soddisfazione per lui e rimaneva quieta sotto quello sguardo, seria come una bambina convalescente che dà prova di star meglio. Le era venuta una gran placidezza. L'uscio chiuso e il tranquillo compagno le davano un agio, un calore che non aveva mai provati né sola né in compagnia, neppure con suo padre. Non si ricordava di essere la gentileschi pittrice e figlia di pittore. Riscuoteva antichi crediti di benevolenza familiare, di familiare rispetto. Aveva, e la parola continuava a esaudire il suo pensiero, aveva un marito. Antonio usciva presto la mattina, spesso lei non se ne avvedeva neppure, tanto aveva il passo leggero e riguardoso. S'accorgeva della sua assenza appena aperti gli occhi, più dalla fila di vestiti che mancava sulla corda che dallo spazio maggiore nel letto, perché Antonio dormiva come un uccello, ravvolto in un mucchio e senza peso. Non le rincrebbe d'essere lasciata sola, neppure il primo giorno, che anzi saltò in piedi fresca e vivace più di quel che non avrebbe voluto, eccitata all'idea di poter rovistare fra le cose che Antonio commerciava, comprava e vendeva. Era una voglia vecchia che risaliva all'infanzia comune, quando tutti i ragazzi del Pincio avrebbero voluto mettere le mani nella sua bisaccia. A volte egli mancava per 3, per 4 giorni, che andava alle fiere anche lontane, le lasciava silenziosamente pattuita una indipendenza senza ostacoli, e sul tavolino quei 10, quei 20 paoli. Artemisia poteva uscire, star fuori la giornata intera, veder chi volesse. Degli abiti rimasti sulle corde si serviva a piacere, spesso li preferiva ai propri. E una volta si travestì da paggio, come usano le dame francesi, diceva Violante a Firenze. Le più volte prendeva una carrozza, andava a Strada Pia da suo fratello, che sempre le domandava se dipingesse e perché non mettesse casa da sé, lontano da quegli stiattesi. «Una donna come te», diceva. Artemisia alzava le spalle senza rispondere. Era difficile spiegargli che ora stava bene così, nelle grotte di Ripa Grande, moglie di Antonio Merciaio, subita e divertita dalla canaglia di casa. Ma volentieri ascoltava le notizie di quel che si dipingeva a Roma e dei pittori nuovi e vecchi, il mento nella mano, gli occhi fissi, teneva dietro a qualche informe progetto di esibizione, di fama, al disegno di riprendere il suo posto, di lavorare, di viaggiare, che già a Roma non sarebbe rimasta, ne era sicura. Ma c'era tempo, la vita era lunga. I passerotti nel boschetto del convento attiguo alla bottega di Francesco si posavano per la notte con un assordante tumulto che si spandeva nel cielo puro. A piedi nudi correva sulle frasche autunnali del giardino il ragazzetto dell'ortolano che doveva suonare l'Ave Maria. Cominciavano a rispondersi le campane crepuscolari. «E babbo?» chiedeva Artemisia. «Non aveva scritto che due volte prima di passare in Francia, poi non ne sapevano più nulla. Era così poco tempo che Artemisia aveva creduto d'essere morta senza di lui». E invece il dolore le era scivolato sopra senza bagnarla, lasciandola più forte, soprattutto più esperta di sé e di come stare nel mondo. La luce si abbassava presto in quella stagione, a 23 ore la notte era già prossima, ma non le faceva paura tornare a casa sola in carrozza per le strade buie di Roma. I discorsi dell'ultima mezz'ora erano i più saporiti. «C'è un pittore francese che fa dei gran paesaggi per Cassiano dal Pozzo. Il Manozzi dipinge ai Santi Quattro e ha portato notizie del tuo Oloferne». Artemisia sorride sotto la mano, i suoi occhi rimangono seri. «I paesaggi, Oloferne!» Anche Agostino dipingeva paesi, ancora lo vede, sul palco a Montecavallo, zufolando e spiando coi pennelli in mano se lei di sotto lo guardasse. Non lo odia più, è come se non fosse nato. Ricordarlo è una curiosità senza voglia. «Felice notte, Francesco», dice alzandosi e accomodandosi sulle spalle la bella mantiglia spagnola che Antonio le ha donato. Salta in carrozza con una sveltezza avventurosa. È una dama incognita. Nella vettura di Nolo che sobbalza sulle pietre e per le buche sbarra gli occhi. «Tenebre!» Giù per la discesa sfrenata, poi torce e staffieri sempre più frequenti, lumi ai tabernacoli, lanterne di viandanti, circospetti. Ma lei si sente sicura e quando scende al portone del Marchese, 10 passi dal punto in cui si apre la grotta, è allegra come una maschera e le fa piacere traversare con passo di regina lo stanzone degli stiattesi dove si dorme, si canta, si mangia e si fan braverie, in 10, in 15 alla volta. «Dica pure, Mariuccia, ecco quella puttana di Artemisia!» Chiusa la porta della sua camera, nulla le dà noia. Bene, se Antonio non è tornato, bene se è tornato. Sola si spoglia, canterellando talvolta con gesti buffoneschi e teatrali, gira la chiave nella toppa, sbocconcella pane e noci, mandorlati, castagne secche, poi, quando tutto è tranquillo, quando i commenti di là si sono quietati, apre il baule, tira fuori carta e carboncino. Come un tempo, disegna al lume della lucerna, ma ringiovanita, spensierata, alzandosi ogni poco per addentare un fico secco e curiosare alla finestra alta che dà nella corte del Marchese. I cavalli, sferragliando dagli zoccoli e impennandosi ritti, prima di infilare il portone, sfiorano con la bocca mostruosa la sua inferriata, vociano i lacchè, fumigano le fiaccole, la veste rossa e la faccia fiorita di un cardinale sfavillano come brace nell'ombra a piede dello scalone, avventandosi il seguito a sostenerne la coda. E Artemisia si butta sul suo letto terragno a riposare.